E vedete, mie care, disse Miss Phoebe Browning, facendole voltare verso il punto dove Roger aspettava il suo turno per parlare con Molly. Dopotutto, abbiamo un gentiluomo qui per voi. Non è una fortuna? Proprio mentre mia sorella affermava che vi sareste annoiata. Intendeva a voi, Cinzia, che venite dalla Francia, ecco. E proprio allora, come mandato dal cielo, Mister Roger è passato a trovarci. E non dico che l'abbiamo costretto, perché lui è troppo buono per questo. Ma ci saremmo andate vicine se non fosse rimasto di sua volontà. Nel momento in cui salutò cordialmente Molly, egli le chiese di essere presentato a Cinzia. Desidero conoscerla, la vostra nuova sorella, aggiunse, con il sorriso gentile che Molly ricordava così bene dal giorno in cui l'aveva visto rivolto a lei mentre piangeva seduta sotto il salice. Cinzia si trovava leggermente dietro Molly quando Roger fece questa richiesta. Di solito ella vestiva con una grazia spontanea, indifferente. Molly, che era la personificazione della cura e dell'ordine, soleva talvolta domandarsi come potessero gli abiti scomposti di Cinzia, buttati là senza alcun riguardo, avere un aspetto così lindo e cadere in pieghe così eleganti. Per esempio, il vestito di mussola lilà che indossava quella sera era stato portato molte volte prima ed era sembrato impossibile usarlo di nuovo, fino a che Cinzia non se l'era infilato. A quel punto il logoramento si era trasformato in morbidezza e persino le grinze avevano assunto i tratti della bellezza. Molly, che indossava della mussola rosa pallida e delicata, non appariva elegante neanche alla metà di lei. Gli occhi seri che Cinzia alzò quando fu presentata a Roger mostravano una sorta di innocenza e di meraviglia infantili che non appartenevano per niente al suo carattere. Quella sera ella indossò la sua magica armatura, involontariamente come sempre, ma dall'altra parte non riusciva a evitare di saggiare il proprio potere sugli estranei. Molly si era sempre creduta in diritto di scambiare con Roger una lunga chiacchierata la prima volta che l'avesse rivisto e pensava che lui le avrebbe raccontato. O lei avrebbe capito dalle sue parole tutti i dettagli che tanto desiderava apprendere a proposito dello Squire, di Hamley Hall, di Osborne, di Roger stesso. Con lei egli fu cordiale e amichevole come sempre. Se Cinzia non fosse stata presente, tutto sarebbe andato come Molly si era aspettata. Ma di tutte le vittime del fascino di Cinzia, Roger fu il più incline a lasciarsi sopraffare. Molly se ne avvide, seduta alla destra di Miss Phoebe al tavolo del tè, e intenta passare avanti torta, panna e zucchero, con una tale attenzione che chiunque, a parte lei, pensò che la sua mente, come le sue mani, fosse totalmente occupata. Tentò di parlare con le due timide ragazzine, come credeva fosse proprio dovere, essendo maggiore di 2 anni rispetto a loro, e la conseguenza fu che si recò al piano di sopra con le due appese alle sue braccia, pronta a giurarle eterna amicizia. Niente le avrebbe soddisfatte se non che lei sedesse fra loro per giocare a vingt un e desideravano così tanto il suo consiglio, nel momento fondamentale di fissare il prezzo delle fiche, che lei non avrebbe neanche potuto partecipare all'animato tête-à-tête tra Roger e Cinzia. O meglio, sarebbe più corretto dire che Roger parlava con molta animazione a Cinzia, i cui occhi dolci erano fissi sul suo viso, con un'espressione di grande interesse per ciò che lui diceva, replicando a bassa voce solo di tanto in tanto. Fra le pause del gioco, Molly colse qualche parola. Da mio zio paghiamo sempre una moneta d'argento da 3 pence per 3 dozzine. Sapete cos'è una moneta da 3 pence d'argento, vero cara Miss Gibson? I risultati delle 3 classi vengono pubblicati alla Senate House venerdì mattina alle 9 e non potete immaginare. Penso sarebbe considerato piuttosto misero giocare per meno di 6 pence. Quel gentiluomo, detto in un sussurro, è a Cambridge e sapete che lì le poste sono molto alte e a volte i giovanotti vanno in rovina. Non è vero, cara Miss Gibson? Oh, in questa occasione il laureato che precede i laureandi mentre fanno ingresso nella Senate House è chiamato il padre del college al quale appartiene. Mi pare di averlo già detto, no? E così Cinzia stava apprendendo tutto su Cambridge e sugli esami per cui Molly nutriva un enorme interesse senza aver mai potuto ricevere delle risposte da una persona competente. E Roger, che lei aveva considerato l'informatore definitivo e più soddisfacente, stava raccontando tutto ciò che lei desiderava sapere e che non era in grado di ascoltare. Dovette ricorrere a tutta la sua pazienza per impilare le fiche e decidere, quale arbitro del gioco, se sarebbe stato meglio assegnare il valore di 6 alle fiche rotonde o a quelle ovali. E quando tutto fu sistemato e ciascuno era seduto al proprio posto attorno al tavolo, Roger e Cinzia dovettero essere chiamati 2 volte prima di avvicinarsi. Si alzarono, è vero, la prima volta che sentirono fare i loro nomi, ma non si mossero. Roger continuò a parlare e Cinzia ad ascoltare, fino alla seconda convocazione, quando allora si affrettarono verso il tavolo e tentarono di apparire improvvisamente interessate alla questione fondamentale del gioco, ovvero il prezzo di 3 dozzine di fiche, e se tutto considerato sarebbe stato meglio assegnare a quelle rotonde e a quelle ovali il valore di 6 ciascuna. Miss Browning, taporellando le carte sul tavolo e pronta a iniziare a distribuire, risolse la faccenda dicendo: Le tonde valgono 6 e 3 dozzine di fish costano 6 pence. Pagate per cortesia e cominciamo subito. Cinzia sedeva fra Roger e William Osborne, il ragazzino che in questa occasione si offese per l'abitudine delle sorelle di chiamarlo Willy, perché penso che fosse quel nomignolo infantile a impedire a Cinzia di rivolgergli la stessa attenzione che dedicava a Mr. Roger Hamley. Anche lui era incantato dall'incantatrice, la quale trovò anche il tempo di regalargli un paio dei suoi dolci sorrisi. Tornando a casa dalla nonna, egli espresse una o due opinioni molto decise e piuttosto originali, che discordavano nettamente, come è naturale, da quelle delle sorelle. Una di queste fu: Dopotutto, quel signor Wrangler non è un granché. Chiunque potrebbe riuscirci se ne avesse voglia, ma molta gente che conosco non andrebbe di impergolarsi in una faccenda così lenta. Molly credette che la partita non finisse mai. Non aveva una particolare attitudine per il gioco d'azzardo e qualunque fosse la sua carta, lei puntava regolarmente 2 fiche, senza badare se avrebbe vinto o perso. Cinzia, al contrario, giocava forte e a un certo punto si ritrovò molto ricca, ma finì per accumulare un debito con Molly di circa 6 scellini. Disse di aver dimenticato il borsellino e che era obbligata a ricorrere per un prestito alla più previdente Molly, la quale sapeva che il gioco del quale Miss Browning le aveva parlato avrebbe probabilmente richiesto del denaro. Se per tutte le persone coinvolte non si trattò di una circostanza particolarmente allegra, in generale fu però molto rumorosa. Molly pensò che sarebbe durata fino a mezzanotte, ma puntualmente, quando l'orologio batté le 9, la piccola cameriera entrò barcollando sotto il peso di un vassoio carico di sandwich, torte e gelatine. Questo causò un movimento diffuso e Roger, che sembrava essere stato in allerta per qualcosa del genere, si alzò e prese posto accanto a Molly. Sono così felice di rivedervi. Sembra passato così tanto tempo da Natale, disse, abbassando la voce e senza alludere con maggiore precisione al giorno in cui lei aveva lasciato Hamley Hall. Tanto tempo, confermò lei. Ormai siamo quasi a Pasqua. Ho tanto voluto dirvi come sono stata contenta di sapere dei vostri voti a Cambridge. Una volta ho pensato di farvi avere un messaggio tramite vostro fratello, ma poi ho ritenuto che avrebbe creato confusione, perché non so niente di matematica né di cosa significa essere un senior Wrangler, e di sicuro avevate ricevuto molte congratulazioni da chi ne sapeva. Però le vostre mi sono mancate, Molly, replicò lui gentilmente. Comunque ero certo che foste felice per me. Felice e anche orgogliosa, aggiunse lei. Mi piacerebbe tanto saperne di più. Ho sentito che dicevate a Cinzia. Sì, che persona incantevole. Penso siate più felice di quanto vi aspettavate tanto tempo fa. Ma ditemi qualcosa del signor Wangler, vi prego, insistette Molly. È una storia lunga e dovrei aiutare le signorine Browning a distribuire i sandwich. E poi non la trovereste così avvincente. È una questione piena di dettagli tecnici. Cinzia sembrava molto interessata, obiettò Molly. Beh, allora chiedete a lei, perché ora devo andare? Mi vergogna star qui seduto mentre quelle brave signore si prendono tutti in disturbo. Ma presto verrò a far visita a Mrs. Gibson. Stasera rientrate a piedi? Sì, penso di sì, rispose Molly, prevedendo con gioia ciò che sarebbe accaduto. Allora vi accompagnerò a casa. Ho lasciato il cavallo alla George, che si trova a metà strada. Immagino che la vecchia Betty permetterà che accompagni voi e vostra sorella, no? La descrivevate come una specie di drago. Betty non è più con noi, spiegò Molly tristemente. È andata a stare in una casa ad Ashcombe. Egli parve sconcertato e poi andò ad attendere ai suoi doveri. Quella breve conversazione era stata molto gradevole e i suoi modi avevano dimostrato proprio la gentilezza fraterna dei vecchi tempi. Ma non era l'atteggiamento che aveva adottato con Cinzia e Molly pensò quasi che avrebbe preferito si comportasse così anche con lei. Il giovane stava ora gironzolando intorno a Cinzia, che aveva rifiutato l'offerta di cibo da parte di Willie Osborne. Roger la stava tentando e con profferte giocose insisteva affinché accettasse qualcosa da lui. Ogni parola che disse poteva essere sentita in tutta la stanza, ma era invece intensa, almeno da parte di Roger, come se lui non avesse potuto parlare in quel modo con nessun altro. Alla fine, e più perché era stanca di quelle insistenze e non per soddisfare il suo desiderio, Cinzia accettò un macaron e Roger apparve felice come se lei l'avesse incoronato di fiori. Tutta la faccenda era di per sé insignificante e banale, tanto da valer la pena di essere notata, però Molly la notò comunque e si sentì a disagio. Non sapeva capire perché. Accadde che la sera era piovosa e Mrs. Gibson inviò una carrozza invece della sostituta di Betty per riportare a casa le ragazze. Sia Cinzia che Molly pensarono di riaccompagnare le due Osborne dalla nonna per risparmiar loro una camminata sotto l'acqua, ma Cinzia prese la parola per prima e i ringraziamenti e le lodi per quella premura furono rivolti solo a lei. Quando rincasarono, Mr. e Mrs. Gibson erano seduti in salotto pronti a lasciarsi intrattenere dal racconto dei particolari della serata. Cinzia esordì: Oh, non è stato molto divertente, non c'era da aspettarselo. Sbadigliò stancamente. Chi c'era? Chiese Mr. Gibson. Un gruppetto piuttosto giovane, no? Avevano invitato solo Lizzie e Fanny Osborne e il fratello. Ma Mr. Roger Hamley era passato di là a far visita alle signorine Browning, così le hanno trattenuto per il tè. Nessun altro. Roger Hamley era lì, disse Mr. Gibson. Dunque è tornato. Devo trovare il tempo di fare un salto a trovarlo. Sarebbe molto meglio che lo invitaste qui, osservò Mrs. Gibson. Perché non invitare lui e suo fratello a cenare qui venerdì, mio caro? Sarebbe un segno di grande riguardo, penso. Mia cara, questi giovanotti di Cambridge hanno un ottimo gusto in fatto di vino e non lesinano. La mia cantina non resisterebbe ai loro assalti. Non credevo foste così inospitale, Mr. Gibson. Non sono certo inospitale. Se nell'angolino del tuo invito scriverai birra amara, così come gli elegantoni specificano quadriglie come motivo di intrattenimento offerto durante il ricevimento, inviteremo Osborne e Roger a cena, anche tutti i giorni se vuoi. E come ti è sembrato il mio prediletto, Cinzia? Mi pare che non l'avessi mai visto prima. Oh, non è affatto bello come il fratello, né altrettanto distinto, e non è facile parlargli. Mi ha intrattenuta per più di un'ora con un lungo resoconto di non so quale esame, ma c'è qualcosa di piacevole in lui. Bene. E Molly, intervenne Mrs. Gibson, che si vantava di essere una matrigna imparziale e che tentava sempre di far parlare Molly tanto quanto Cinzia. Com'è andata la tua serata? Molto piacevole, grazie. Il suo cuore la smentì un poco mentre diceva così. Al gioco non si era appassionata. Sarebbe invece molto interessata alla conversazione di Roger. Aveva ricevuto ciò di cui non si curava ed era stata privata di ciò che le sarebbe piaciuto. Anche noi abbiamo avuto un ospite inatteso, proseguì Mr. Gibson. Proprio dopo cena, chi arriva se non Mr. Preston? Ho idea che abbia in carico la gestione della proprietà di Hollingford più che in passato. Sheepshanks sta invecchiando e se così è, sospetto che Mr. Preston lo vedremo parecchio. Non è certo un timido, come si dice in Scozia, e stasera ha fatto proprio come se fosse a casa sua. Se gli avessi chiesto di restare, o insomma avessi fatto altro se non sbadigliare, adesso sarebbe ancora qui. Ma sfido chiunque a trattenersi quando ho un attacco di sbadigli. A te piace, Mr. Preston, papà? Chiese Molly. Più o meno come mi piace la metà degli uomini che incontro. Parla bene e ha visto molte cose. Lo conosco poco, però, se non per il fatto che è l'amministratore di Milord, il che è già una notevole garanzia. Lady Harriet ha parlato di lui con tono davvero ostile il giorno che ho passato con lei alla Manor House. Lady Harriet è sempre piena di fantasie. Oggi una persona le piace, domani no, commentò Mrs. Gibson, che si sentiva a punta sul vivo ogni volta che Molly citava Lady Harriet o affermava qualsiasi cosa potesse implicare una confidenza con lei per quanto transitoria. Devi conoscere molto bene Mr. Preston, mia cara. Immagino tu l'abbia incontrato di frequente ad Ashcombe. Mrs. Gibson arrossì e guardò Cinzia prima di rispondere. Il viso della giovane mostrava la determinazione di non dir nulla, nonostante ci si appellasse chiaramente a lei. Sì, l'abbiamo visto spesso per un certo periodo, voglio dire. Lo trovo un tipo mutevole, ma ci ha sempre mandato la selvaggina e a volte della frutta. Circolavano storie su di lui, ma io non ci ho mai creduto. Che tipo di storie? Domandò subito Mr. Gibson. Oh, storie poco chiare, capite? Scandali, direi. Nessuno ci ha mai creduto. Se volesse. Saprebbe essere così gradevole e Milord, che è così pignolo, non l'avrebbe mai tenuto con sé come amministratore se fossero state vere. Non che io abbia mai saputo di cosa si trattasse, perché io considero tutti gli scandali nient'altro che deplorevoli pettegolezzi. Sono proprio contento di avergli sbadigliato in faccia, dichiarò Mr. Gibson. Spero abbia colto l'allusione. Se era uno dei tuoi sbadigli giganteschi, papà, lo definirei ben più che un'allusione, disse Molly. E se la prossima volta che viene hai bisogno di un coro di sbadigli, io ne farò parte. E tu, Cinzia? Non so, rispose l'interpellata brusca, accendendo la candela da letto. Le due ragazze di solito chiacchieravano un po' prima di dormire nella stanza dell'uno dell'altra, ma quella sera Cinzia disse qualcosa sul fatto di essere terribilmente stanca e chiuse rapidamente la porta. Esattamente il giorno dopo, Roger venne a far loro visita, come promesso. Molly si trovava fuori in giardino con Williams per progettare la disposizione di alcune nuove aiuole di fiori e piantare dei pioli sul prato per segnare le diverse collocazioni delle piante. A un certo punto, alzandosi per osservare l'effetto, il suo sguardo colse la figura di un gentiluomo seduto con la schiena rivolta alla luce, chino in avanti, intento a parlare ad ascoltare con ardore. Molly riconobbe perfettamente la forma della testa e subito iniziò a togliersi il grembiule da giardinaggio di lino grezzo, svuotandone le tasche mentre diceva a Williams: Ora potete finire voi, direi. Sapete che i fiori più vivaci vanno posti lungo la siepe di ligustro? E dove va piantato il nuovo roseto? Non ne sono sicuro, rispose l'uomo. Forse potreste rispiegarmelo, Miss Molly. Non sono giovane come una volta, oggi la mia testa non è molto lucida e non vorrei commettere errori, visto che siete così decisa sul vostro progetto. Molly rinunciò immediatamente all'impulso. Si accorse che l'anziano giardiniere era davvero perplesso, eppure ansioso di fare del suo meglio. Così tornò sul prato a piantare i pioli e a rispiegare finché la fronte corrucciata di lui non si distese ed egli affermò: Capisco, signorina. Bene, Miss Molly. Adesso ce l'ho in mente chiaro come un patchwork. Dunque lei poté lasciarlo ed entrare. Ma proprio mentre si avvicinava alla porta del giardino, Roger uscì dalla casa. Si trattò veramente di un caso di virtù ricompensata perché per lei fu molto più piacevole averlo tutto per sé, per quanto brevemente, piuttosto che nello stato di soggezione dovuto alla presenza di Cinzia e di Mrs. Gibson. Ho scoperto appena adesso dove eravate, Molly. Mrs. Gibson ha detto che eravate uscita, ma non sapeva dove foste, ed è stato per puro caso che mi sono voltato e vi ho vista. Io vi avevo visto, ma non potevo lasciare Williams. Penso che oggi sia stranamente lento. Sembrava non capire i miei progetti per le aiuole. E il foglio che avete in mano? Lasciate che ci dia un'occhiata, posso? Ah, vedo. Avete preso alcune idee dal nostro giardino, vero? Questa aiuola di gerani rossi, contornata dalle querce giovani e tutta picchettata. Questo era un vezzo della mia cara mamma. Tacquero entrambi per un paio di minuti, poi Molly riprese. Come sta lo Squire? Non lo vedo da quell'ultima volta. Eh già, mi ha detto che vorrebbe tanto incontrarvi, ma non riusciva a convincersi a farvi visita qui. Suppongo che non sarebbe opportuno adesso che voi veniste a stare a Hamley Hall, vero? Mio padre ne sarebbe così felice. Vi considero una figlia e di certo sia per me che per Osborne siete come una sorella. Dopo tutto l'affetto che c'è stato con mia madre e le vostre amorevoli cure all'ultimo. Ma immagino che non sarebbe conveniente. No, proprio no, convenne frettolosamente Molly. Secondo me, se poteste venire, le cose si sistemerebbero un po'. Sapete, come penso di avervi già raccontato, che Osborne si è comportato diversamente da come io avrei ritenuto giusto, anche se non in modo sbagliato. Ha commesso solo, come lo chiamo io, un errore di valutazione. Ma mio padre si è messo in testa l'idea che non importa. Però la conseguenza di tutto questo è che tuttora considera Osborne tacitamente in disgrazia e intanto sta malissimo anche lui. Osborne, a sua volta, soffre da infelice, un estraneo per mio padre. È proprio una situazione che mia madre avrebbe risolto molto rapidamente e forse anche voi potreste, inconsapevolmente, voglio dire. Perché questo disgraziato mistero che Osborne mantiene sui suoi affari sta alla base di tutto. Ma parlarne è inutile. Non so neanche perché ho cominciato. Poi, cambiando decisamente argomento, mentre Molly stava ancora pensando a quanto le aveva riferito, riprese. Non so dirvi quanto mi piace Miss Kirkpatrick, Molly. Deve essere un enorme piacere per voi godere di una simile compagnia. Sì, confermò Molly con un mezzo sorriso. Le voglio molto bene e penso di apprezzarla di più ogni giorno che passa. Ma voi avete scoperto molto velocemente le sue virtù. Non ho detto virtù, non è vero? Chiese lui arrossendo, ma volendo essere del tutto sincero sull'argomento. Eppure non penso che si possa restare ingannati da quel viso. E Mrs. Gibson ha l'aria di una persona molto amichevole. Ha invitato Osborne e me a cenare qui venerdì. La birra amara tornò in mente a Molly, ma ciò che ella disse fu: E verrete? Certo, io sì, a meno che mio padre non abbia bisogno di me. E ho promesso a Mrs. Gibson che verrà anche Osborne, se non ci saranno impedimenti. Così vi vedrò tutti molto presto. Adesso però devo andare. Ho un appuntamento a 7 miglia da qui tra mezz'ora. Buona fortuna per i vostri fiori molli. Capitolo 22. I guai del vecchio Squire. A Hamley Hall le cose andavano peggio di quanto Roger avesse voluto raccontare. Oltretutto, gran parte di quel disagio dipendeva semplicemente dall'atteggiamento, come diceva la gente, ovvero da qualcosa che è sempre indescrivibile e indistinto. Nonostante la sua apparenza silenziosa e passiva, Mrs. Hamley era stata lo spirito guida della casa finché era rimasta in vita. Gli ordini ai domestici, fino ai più piccoli dettagli, erano stati impartiti dal suo salotto o dal divano su cui si stendeva. I suoi figli sapevano sempre dove trovarla e trovare lei significava trovare amore e comprensione. Suo marito, che era spesso inquieto e arrabbiato per l'uno o l'altro motivo, si rivolgeva sempre a lei per calmarsi e consolarsi. Egli era consapevole della buona influenza che riceveva dalla moglie e in sua presenza ritrovava la pace, come un bambino che si sente bene in compagnia di qualcuno che sia fermo e gentile. Ma la chiave di volta della famiglia se n'era andata e le pietre con cui essa era costruita iniziarono a crollare. È sempre triste quando un dolore di questo genere sembra infierire sul carattere di chi è sopravvissuto a sopportare il lutto. Eppure forse questa sofferenza può essere solo temporanea o superficiale. I giudizi, espressi costantemente sul modo in cui le persone affrontano la perdita di coloro che hanno amato profondamente, suonano persino più crudeli e distribuiti ingiustamente di quanto siano di norma le opinioni umane. Gli osservatori distratti, per esempio, avrebbero avuto l'impressione che lo Squire fosse diventato più capriccioso e più esigente, più irrequieto e più autoritario a causa della morte di Mrs. Hamley. La verità era che il fatto avvenne in un momento in cui egli era tormentato da tante cose, alcune delle quali gli avevano provocato un'amara delusione. E lei non c'era più. Lei alla quale l'uomo era solito presentare il proprio cuore afflitto per ricevere il dolce balsamo delle sue parole gentili. Così quel cuore afflitto faceva male e bruciava internamente. E spesso, notando come gli altri fossero feriti dal suo comportamento aggressivo, egli avrebbe potuto urlare per chiedere loro pietà, invece di suscitare la loro ira e il loro rincrescimento. Abbiate misericordia di me perché sono in angoscia. È accaduto spesso che questi muti pensieri siano usciti dal cuore di coloro che hanno preso il loro dolore dal lato sbagliato, come suppliche per scongiurare il peccato. E quando lo Squire si accorse che i domestici stavano imparando ad avere paura di lui e il suo primogenito a evitarlo, non li biasimò. Sapeva di essere diventato un tiranno. Sembrava che gli eventi cospirassero contro di lui e che lui fosse troppo debole per combatterli. Altrimenti, perché tutto dentro e fuori casa andava così male? Proprio adesso, quando la sola cosa che sarebbe stato in grado di fare, se le circostanze fossero state favorevoli, era rassegnarsi con imperfetta sopportazione alla perdita della moglie. Invece, nel momento in cui gli servivano contanti per placare i creditori di Osborne, il raccolto si era rivelato incredibilmente prospero e il prezzo del grano era precipitato a un livello a cui non scendeva da anni. Quando si era sposato, lo Squire aveva stipulato, a fronte di una somma considerevole, un'assicurazione sulla propria vita. Quel denaro era inteso a provvedere alla moglie, se gli fosse sopravvissuta, e ai loro figli. Ora Roger era l'unico destinatario di quegli interessi, ma lo Squire rifiutava di perdere l'assicurazione smettendo di pagarne la rata annuale. Se avesse potuto, non avrebbe voluto vendere neanche una parte delle terre che aveva ereditato da suo padre, inoltre la proprietà era strettamente vincolata. A volte aveva pensato a come sarebbe stato saggio poterne venderne una parte e con i soldi recuperati bonificare e recuperare il resto. Alla fine, venendo a sapere da un vicino che il governo avrebbe offerto degli anticipi per le opere di drenaggio a un tasso di interesse molto basso, a condizione che l'opera venisse svolta e il denaro ripagato entro una data di scadenza, sua moglie lo aveva esortato ad approfittare di quell'offerta di prestito. Ma ora che lei non era più lì a incoraggiarlo e ad appassionarsi al progresso dei lavori, egli iniziò a disinteressarsene e non si preoccupò più di uscire sul suo robusto roano e ben piantato in sella, di osservare i lavoranti impegnati sul terreno acquitrinoso e ammantato di giunchi, né di parlare di tanto in tanto insieme a loro, con quel loro dialetto di campagna forte e nervoso. Eppure, gli interessi al governo dovevano essere pagati lo stesso e non importava che gli uomini lavorassero bene o male. Quell'inverno poi il tetto di Hamley Hall lasciò gocciolare all'interno la neve scongelata e dopo un sopralluogo saltò fuori che era assolutamente necessario un tetto nuovo. I personaggi che si erano presentati lì per via degli anticipi concessi a Osborne dai prestatori di denaro londinesi avevano parlato spregiativamente del legname della tenuta. Alberi molto buoni, solidi, forse 50 anni fa, ma ormai marciti, non erano stati potati a dovere. Non c'era un forestale, un guardiaboschi, non avevano affatto il valore che il giovane Hamley aveva dichiarato. Questi commenti erano giunti alle orecchie dello Squire. Egli amava gli alberi sotto cui aveva giocato da bambino come se fossero state creature vive, era il lato romantico della sua natura. Considerandoli semplicemente dal punto di vista del loro prezzo in sterline, aveva creduto che valessero molto e fino a quel momento non aveva mai ricevuto da nessun altro un'opinione che correggesse il suo giudizio. Perciò le parole dei periti lo ferirono moltissimo, sebbene fingesse di non dar loro fiducia e tentasse di persuadersi a non crederci. Ma dopo tutto queste preoccupazioni e queste delusioni non toccavano neanche la radice del suo profondo rancore nei confronti di Osborne. Niente sa rendere cocente la rabbia come l'affetto mortificato. E lo Squire reputava che Osborne e i suoi consiglieri avessero fatto calcoli basati sulla sua morte. L'idea era così esecrabile, gli dava una tale angoscia che non volle affrontarla, non volle definirla, non volle indagare. Preferì invece coltivare quelle fantasie morbose che sono inutili in questo mondo. Era nato sotto una cattiva stella, qualunque cosa di cui si occupava andava storta. In conseguenza di ciò, però, egli non divenne più umile. Attribuì le proprie disgrazie al fato, non a se stesso, e immaginò che Osborne stesse a guardare i suoi fallimenti, deprecando la durata naturale della sua vita. Tutte queste lucubrazioni sarebbero svanite se ne avesse potuto parlare con sua moglie, o anche se avesse avuto l'abitudine di stare spesso in compagnia di coloro che riteneva suoi simili. Ma, come è già stato detto, egli era meno istruito di coloro che avrebbero dovuto essere i suoi pari, e forse la gelosia e la mauvaise honte che questa inferiorità aveva suscitato molto tempo prima, si erano estese in una certa misura ai sentimenti che egli provava per i suoi figli, meno nei confronti di Roger, di più in quelli di Osborne, sebbene il primo fosse risultato di gran lunga il migliore. Ma Roger era un tipo pratico, gli interessava tutto ciò che avveniva all'aperto e godeva dei particolari, anche modesti, che suo padre a volte gli raccontava a proposito degli eventi quotidiani che osservava nei boschi e per campi. Osborne, al contrario, era ciò che comunemente si definisce raffinato, delicato quasi fino a diventare femmineo nel portamento e nei vestiti e molto attento a certi piccoli dettagli. Di tutto ciò suo padre era stato molto orgoglioso al tempo in cui aveva sperato per il figlio una brillante carriera a Cambridge. In quei giorni egli aveva considerato l'eleganza e la puntigliosità di Osborne nient'altro che ulteriori gradini verso il matrimonio altolocato e prospero, che avrebbe dovuto rinvigorire le antiche fortune della famiglia Hamley. Ma ora che Osborne aveva ottenuto appena la laurea, che tutte le vanterie del padre si erano rivelate vane, che la pignoleria aveva causato spese inattese, tanto per ascrivere i debiti di Osborne alla causa più innocente possibile, i modi di fare e di comportarsi del giovane erano diventati motivo di irritazione per suo padre. Quando era a casa, Osborne si occupava ancora dei suoi libri e della sua scrittura, e questa maniera di trascorrere la maggior parte della giornata gli offriva ben pochi argomenti in comune con il genitore quando si incontravano per i pasti o la sera. Forse, se Osborne fosse riuscito a trovare più interessi all'aria aperta, sarebbe stato meglio. Ma egli era miope e poco si curava delle ricerche del fratello, tutte basate sull'osservazione accurata. In campagna conosceva solo pochi giovani del suo rango. Persino la caccia di cui era appassionato aveva subito restrizioni quell'anno perché il padre aveva licenziato un paio dei cacciatori che fino ad allora lo avevano accompagnato. L'intero equipaggiamento delle stalle era stato ridotto, forse perché era il tipo di economia che pesava di più sui piaceri sia dello squire che di Osborne e che quindi egli aveva una soddisfazione selvaggia nel mettere in vigore. La vecchia carrozza, la pesante vettura di famiglia acquistata in un periodo di relativa prosperità, non serviva più dopo la morte della signora e cadde a pezzi nella reclusione fitta di ragnatele della rimessa. Il migliore fra i due cavalli che la tiravano fu legato al calessino, ora usato dallo squire, il quale ripeté numerose volte a coloro che fossero interessati ad ascoltarlo, che era la prima volta da generazioni che gli Hamley di Hamley non erano nelle condizioni di mantenere una carrozza. L'altro cavallo fu messo al pascolo perché era troppo vecchio per fare da bestia da soma. Con Quirrell si avvicinava alla palizzata del parco con alti nitriti ogni volta che vedeva lo squire, che portava sempre un pezzo di pane, dello zucchero o una mela per il suo vecchio prediletto, e che spesso parlava e si lamentava con il muto animale, raccontandogli di come erano cambiati i tempi da quando entrambi erano nel fiore della giovinezza. Lo squire non era mai stato solito incoraggiare i figli a invitare i loro amici a Hamley Hall. Forse anche questo dipendeva dalla sua mauvaise honte e anche da una consapevolezza esasperata dei difetti della sua casa, se comparata con quella a cui lui immaginava i ragazzi erano abituati. L'aveva spiegato un paio di volte a Osborne e a Roger quando frequentavano Rugby. Vedete, voi studenti delle scuole private siete legati in una sorta di massoneria, per cui guardate coloro che ne sono esclusi come io guardo i conigli e tutto ciò che non è selvaggina. Sì, ridete pure, ma è così. E i vostri amici mi guarderanno intralice, non penseranno certo al mio pedigree, che farebbe rabbrividire il loro albero genealogico, non c'è dubbio. No. Non voglio qui nessuno che possa guardare dall'alto al basso un Hamley di Hamley, neanche se sapesse solo fare una croce al posto di scrivere il proprio nome. E così, ovviamente, i figli non poterono andare in visita nelle residenze di compagni ai quali lo squire non avrebbe potuto o voluto restituire l'ospitalità. In queste circostanze, Mrs. Hamley aveva esercitato tutta la propria influenza senza risultati, i pregiudizi del marito erano granitici. Per quanto riguardava la sua posizione di capo della più antica famiglia in tre contee, il suo orgoglio era invincibile e in merito alla sua persona, a disagio in compagnia dei suoi pari, inadeguato nei modi di comportarsi e carente nel campo dell'istruzione, la sua sensibilità patologica era troppo risentita e troppo vergognosa per potersi definire umile. Prendiamo un solo esempio, tra tanti simili scenari dello stato emotivo che intercorreva tra lo squire e il figlio maggiore, che, se anche non si poteva descrivere come attiva discordia, dimostrava tuttavia una passiva estraneità reciproca.